2024 di Enrico Pagliarini. Oggi Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica, questa è la puntata del 9 febbraio, siete all'ascolto di 2024, benvenuti o bentornati, questo è il primo programma alla radio in Italia che si occupa di tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire assieme come la tecnologia ci sta cambiando la vita e ce la sta cambiando molto, ma vedrete quello che succederà nei prossimi anni, non abbiamo ancora visto quasi nulla. Io sono Enrico Pagliarini, oggi ci aiuta in regia Giorgio De Luca. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 800240024. Se preferite utilizzare un SMS, quindi pagare la tariffa al vostro gestore, 349-238-6666. Se utilizzate i social network c'è Twitter e anche Facebook, cercate o Enrico Pagliarini oppure 2024, ci sono i nostri account. Iniziamo questa puntata parlando della strategia europea per il cybercrime o contro il cybercrime, quindi iniziamo da Bruxelles. The strategy we're launching today sets out a number of priorities to improve. Questa è la voce di Catherine Ashton, la responsabile per la politica estera e la difesa dell'Unione Europea, che assieme ai commissari all'agenda digitale Nelly Kroes e a quello agli affari interni Cecilia Malmström ha presentato giovedì la strategia europea contro il cybercrime. Questo è un tema estremamente importante per noi singoli cittadini, per le aziende, il settore pubblico. La Ashton ha detto che ogni giorno circolano in rete 150.000 virus, li chiamiamo tutti virus ma in realtà c'è anche dell'altro, e un numero analogo di computer in Europa viene compromesso ogni giorno. Il costo del cybercrime è pari a centinaia di miliardi di euro ogni anno. There are an estimated 150,000 computer viruses in circulation every day, and a similar number of computers are compromised every day. Allora, visto che questo è un tema molto delicato, quando si deve proteggere un luogo o una persona, il grado di intervento può interferire con le libertà delle persone. Allora, quello che ha aggiunto la Ashton presentando la strategia europea contro il cybercrime è molto importante. At the heart of our policy is a firm belief that the protection of fundamental rights is as important. Ashton dice: al centro della nostra politica c'è la convinzione che la protezione dei diritti fondamentali sia tanto importante nel mondo virtuale come nel mondo reale, e su questo, dice la Ashton, c'è una unità di vedute in Europa. Internet deve rimanere aperto e libero. It has to remain free and open. Questo è molto importante perché, ma lo commentiamo settimana dopo settimana, 2024, ne abbiamo parlato molto soprattutto lo scorso anno, ci sono sempre tensioni, a volte arrivano dagli stati nazionali, a volte arrivano dal mondo dell'industria che tentano di mettere i bastoni tra le ruote di questa libertà che la rete internet ha creato in tutto il mondo. Allora, al centro della strategia europea c'è un maggior coordinamento tra gli stati membri, con l'obbligo di creare un soggetto nazionale, un'entità, una responsabilità nazionale che si occupi di questo tema, quindi della lotta al cybercrime. E poi c'è anche, ci sarà l'obbligo per tutte le aziende di una certa dimensione, di una certa importanza, di alcuni settori, ma i settori stanno diventando sempre di più, di adottare procedure contro attacchi informatici, anche l'obbligo di comunicare all'esterno tutti gli attacchi subiti. Sapete che negli Stati Uniti, soprattutto in alcuni altri paesi, ma in modo particolare negli Stati Uniti, c'è questo obbligo. Infatti molto spesso arrivano notizie, anche questa settimana ci sono parecchie notizie, che un'azienda è stata attaccata, che una certa entità è stata attaccata, perché c'è questo obbligo, e naturalmente questo dovrebbe far crescere sia la sensibilità ma anche la responsabilità delle aziende verso il cybercrime e la protezione dei dati personali che vengono raccolti appunto dalle aziende. Quindi diciamo che in generale è positivo che l'Unione Europea solleciti sia il settore pubblico che quello privato ad essere più attento e responsabile contro il crimine informatico. Adesso cambiamo argomento. Il primo approfondimento di oggi è dedicato a Waze, scritto con la W iniziale, A-Z-E. Scritto Waze o Vaze, dipende come lo pronunciate, però all'inglese è Waze. Saluto Elisabeth Reato, benvenuta a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Elisabeth Reato è la responsabile della comunità italiana di Waze, uno dei più noti sistemi di navigazione GPS per smartphone. Esiste per iOS, quindi prodotti Apple, per Android e anche alcuni sistemi operativi minori, ma non ancora, speriamo arrivi presto, per Windows Phone. Allora, Elisabeth, come definite voi Waze? Sì, dunque, noi lo definiamo più un'applicazione GPS gratuita e sociale, in particolare per la guida di tutti i giorni e per evitare il traffico, questo tema increscioso che ci colpisce ogni giorno per ogni nostro spostamento, tendenzialmente. È un'applicazione incentrata in particolar modo sulla propria comunità di utilizzatori che possono interagire con le mappe attraverso l'applicazione, quindi segnalando qualsiasi tipo di evento che può accadere, insomma, durante il proprio percorso, come un ingorgo, un posto di blocco, un incidente, una telecamera, un autovelox, oppure ad un livello insomma un po' più esperto anche interagire con le mappe attraverso un map editor nel nostro sito e quindi proprio editarle. Quindi costruire le mappe vere e proprie. Costruirle o sì. Correggerle a seconda del anche della capacità delle persone, certo. Diciamo, perché a volte si tratta di mapparle proprio da capo, da mappa bianca a creare una cartografia, sì. Oppure a volte anche andare a correggere o aggiornare, ecco, una strada chiusa oppure una strada che cambia senso, che cambia eccetera, eccetera. Direzione di mare. Sicuramente la parte social è quella che vi distingue. Ecco, allora, proprio da questo punto di vista diciamo qualche cosa in più, partendo però dalla community. Quanti sono gli utilizzatori nel mondo e in Italia, visto che tra l'altro l'Italia è uno dei paesi più attivi? Sì, allora nel mondo abbiamo raggiunto i 33 milioni e con una media di registrazione di 2 milioni al mese. In Italia invece, che è la seconda comunità, diciamo, più grande, la nostra comunità più grande nel mondo, siamo quasi a 2 milioni e mezzo e abbiamo un ritmo, diciamo, di registrazioni al mese di 150-160 mila utenti. Beh, 2 milioni e mezzo sono un grande numero. Sì, sono un grande numero, considerato anche che insomma è una comunità molto attiva, per cui non solo si registrano ma interagiscono parecchio a vari livelli, ecco, sia utilizzando solo l'applicazione ma anche poi come community di map editors, quindi di persone che vanno ed editano le mappe. La cosa più semplice che uno può fare è utilizzare Waze così come si utilizza qualsiasi altro sistema di navigazione, andando dal punto A al punto B. Qualche cosa in più, cioè se uno vuole fare qualcosa in più, cos'ha di diverso Waze? E dunque, bisogna sempre partire dal presupposto che noi siamo un GPS per, diciamo, i guidatori pendolari, quindi nella vita di tutti i giorni, ossia per chi da casa vuole raggiungere il lavoro, la scuola dei propri figli, l'università, il supermercato, insomma le destinazioni della nostra quotidianità. Per questo diciamo che aprendo Waze Naviga, di solito si ha la possibilità di inserire la propria destinazione, memorizzarla tra i favoriti e c'è l'opzione addirittura di calcolare degli itinerari alternativi, ossia inserendo la propria destinazione lui ti propone un itinerario e un, diciamo, tempo di arrivo, un ETA che sarebbe il tempo stimato di arrivo. Se noi riscontriamo che l'itinerario è più, come dire, ostico per via del traffico, di incidenti, abbiamo la possibilità di aprire un'altra finestra e lui ti dà anche le altre opzioni con tempi minori o maggiori. Naturalmente noi sceglieremo la soluzione più efficace, che ci farà risparmiare tempo ma anche soldi di benzina, ecco. Ovviamente tutti i principali sistemi di navigazione GPS hanno ormai la funzione traffico. TomTom ha forse il sistema più complesso e completo, e anche i principali navigatori gratuiti che si trovano su smartphone hanno questa funzione. Allora, le le informazioni sul traffico vengono raccolte sostanzialmente in due modi: dagli utenti dell'applicazione, che col loro terminale comunicano in modo passivo e anonimo la traccia del loro viaggio, fanno così tutti, pensate ad esempio alla comunità di persone che hanno un TomTom in giro per l'Europa, beh, tutti questi sistemi, almeno quelli della versione live, forniscono informazioni ad un centro controllo che sta in Olanda, che interpreta e quindi capisce anche dove c'è traffico. Se uno in un'autostrada rallenta 50 km all'ora, beh, se uno qualche sospetto ci viene, se la traccia ci indica che ci sono 100 macchine, 100 terminali che vanno ai 50 all'ora, naturalmente lì è molto probabile che ci sia un ingorgo. Altro tipo di informazioni che vengono raccolte un po' da tutti, ci sono soggetti, aziende, ne abbiamo parlato 2024, abbiamo avuto ad esempio ospite Octotelematics, che fa questo di mestiere, non solo questo ma anche questo di mestiere, che raccolgono grazie a SIM che sono integrate in vari sistemi, in varie scatole nere su molte milioni di automobili in tutta Europa, queste società forniscono informazioni a chi poi costruisce sistemi di mappe. Questo è sostanzialmente il modo. Naturalmente Waze dice: noi abbiamo una comunità così vasta e quindi la parte social di questo sistema è molto forte, infatti si dice community driven application, per cui queste informazioni sono fornite dalla comunità. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di Waze, questa applicazione guidata dalla comunità che addirittura fa le mappe, crea le mappe e soprattutto fornisce informazioni sul traffico. Io a volte devo dire che sono stato salvato in alcuni casi proprio grazie a queste informazioni, che, ripeto, non fornisce solo Waze, altre aziende hanno questi servizi, ma la particolarità di Waze è che è basato su una comunità che in Italia tra l'altro è molto forte. Con noi Elisabeth Reato, che è la responsabile della comunità italiana di Waze. Dunque, Elisabeth, a proposito di mappe, come le costruite queste mappe? Diciamo che le mappe sono opera della nostra comunità di utilizzatori. E nella maggior parte dei paesi abbiamo cominciato da una mappa completamente bianca che gradualmente e lentamente la nostra community ha costruito. In qualche caso abbiamo collaborato con alcuni providers, però nella maggior parte dei casi è tutta opera del lavoro volontario dei nostri map editors. Ecco, da questo punto di vista, in Italia, ecco, anche in Italia nel 2009, quando Waze è stato lanciato, esisteva una mappa bianca che lentamente è stata costruita. Senti, ecco, da questo punto di vista volevo chiederti se sono una minoranza quelli che attivamente partecipano a costruire anche le mappe, perché sì, tu mi dici che di fatto io che utilizzo Waze sono come un pennello che disegna mentre la mia macchina va. Se vado su una strada che non è ancora stata disegnata, sono io che proprio faccio il disegno della mappa. Però diciamo che ad oggi siamo nella situazione in cui buona parte dell'Italia è stata costruita, la mappa di Waze è stata costruita e quindi si va avanti facendo delle modifiche, aggiunte, eccetera eccetera. La parte attiva, che quindi va anche sull'editor delle mappe per cambiare, aggiungere, modificare, eccetera eccetera, in che percentuale è così attiva? Diciamo che chi raggiunge il livello di users, di utilizzatore, diciamo, esperto, e quindi accede, diciamo, al map editor, ad oggi siamo a 2600 map editor attivi. Nell'ultimo mese, diciamo, siamo su una media di 300 editors, che però editano, nel senso che investono gran parte del tempo ad editare. È interessante questo. Comunque siamo a grosso modo 1%, 1,5, 2%. Sì, però sì. Buono, nel senso che sono editor che hanno raggiunto anche un certo livello di esperienze, che quindi garantiscono anche una certa qualità dell'editing. Certo. E quando la mappa è editata bene, l'applicazione ovviamente ne riceve beneficio. Chiarissimo. Senti, a questo punto ti faccio la domanda delle domande, cioè qual è il vostro modello di business, visto che sono mappe gratuite che sono in concorrenza con le mappe gratuite che troviamo già sui navigatori, ma sono normalmente dei risultati di altre attività, cioè Google mette a disposizione le mappe per sostenere tutto il resto dell'attività di Google, Nokia per vendere più telefoni, Apple idem, insomma, o può in prospettiva per farci anche del business, magari piazzandoci la pubblicità geolocalizzata, eccetera, eccetera. Esatto. Nel vostro caso? Noi siamo in questa direzione, nel senso che in Israele, in Italia, negli Stati Uniti e in America Latina abbiamo lanciato la pubblicità geolocalizzata, anche perché esistono molti mercati utili per i guidatori pendolari di tutti i giorni e quindi noi vogliamo offrire un modo semplice ed agevolato perché loro trovino quello di cui hanno bisogno in sé. E, per esempio, come i distributori di benzina. Abbiamo addirittura anche abbiamo creato una sorta di funzionalità attraverso la quale l'utilizzatore può aggiornare anche i prezzi di benzina, per cui, come dire, un inserzionista vuole fare la pubblicità sulla mappa, per esempio una marca di carburante, e noi mettiamo dei pin visibili sulla mappa, cliccandoci sopra. Possono anche esserci delle promozioni, quindi l'utente che utilizza Waze può recarsi a quel distributore di benzina e ricevere uno sconto, sì, e in più aggiornare anche i prezzi della benzina. Chiaro. Che tipo di uso fate dei dati? Perché naturalmente io quando utilizzo Waze, ma succede anche con altre applicazioni, rimango collegato alla rete, anche perché i dati vengono downloadati, quindi scaricati dalla rete, i dati cartografici della mappa, in quel caso io vi do delle informazioni che poi servono al sistema, perché abbiamo detto che ad esempio per calcolare il traffico tutta la comunità manda dati a Waze che poi li elabora per farci capire ad esempio quanto traffico c'è, eccetera, eccetera. Che vengono utilizzati per migliorare la prestazione dell'applicazione tendenzialmente, cioè ogni guidatore che apre l'applicazione diventa una traccia di punti GPS attraverso i quali o si costruisce la mappa o si calcola la velocità media e si desumono le aree di maggior traffico. Insomma, i dati vengono comunque sempre utilizzati e solo utilizzati per il calcolo, ecco, per il calcolo dei percorsi più brevi e che ti facciano risparmiare, insomma, sì, più tempo. Senti, ti faccio una domanda sulla vostra startup, perché di questo si tratta. Qual è il piano di sviluppo? Cioè, dovreste andare in break even quando? Oppure in quali condizioni? Cioè, non so, raggiunti 100.000 utenti? Ah, non ci stiamo ancora pensando, nel senso che siamo ancora in una fase di sviluppo, stiamo ancora cercando di migliorare l'applicazione, di aggiungere funzionalità e di renderla il più utile possibile, per cui non abbiamo ancora raggiunto. Sì. Senti, visto che tu sei la persona che si occupa della community di Waze in Italia, sì, ti sei mai fatta o vi siete mai fatti una domanda sul perché la gente collabora con voi nella modifica, nella creazione delle mappe? Perché naturalmente noi abbiamo parlato ad esempio in passato di un progetto open source che è OpenStreetMap, dove non esiste un risvolto diretto di business, poi magari ci sono delle società che utilizzano quei dati per farci business, però in questo caso un utente che vi aiuta a modificare le mappe in qualche modo vi aiuta a fare business pur non ricevendo, diciamo, direttamente un compenso. Ecco, vi siete mai domandati come mai succedono queste cose? Che è poi una delle particolarità anche della rete, il famoso crowdsourcing. Questo è un esempio di crowdsourcing. Sì, beh, le nostre mappe sono, come dire, la nostra community, diciamo che impiega il proprio tempo e tanto tempo a costruire e correggere le mappe, diciamo che non solo perché gli piace, ma bensì perché realizzano veramente che il loro contributo è il valore aggiunto dell'applicazione e quindi è il beneficio che loro ne traggono nell'utilizzo. Vedono che proprio il lavoro che loro fanno poi viene realizzato nel vantaggio che loro ricevono nell'utilizzare la mappa. Quindi diciamo, io segnalo che magari c'è un senso unico in una strada dove magari non è ancora stato segnalato, perché facendola tutti i giorni poi il navigatore funziona meglio, cioè questo vuoi dire? funziona meglio e quindi funziona meglio anche la tua guida. Sì, sì, certo. Nel senso che si vede questo beneficio alla fine del cerchio, diciamo. E in più non è complicato, non gli si chiede uno sforzo enorme. Alla fine la persona che va a modificare o a costruire le mappe lo fa attraverso delle azioni molto semplici che non richiedono molto tempo e nemmeno azioni o conoscenze complesse, per cui attraverso un'azione minima hanno un massimo beneficio. Grazie ancora per essere stata con noi, a presto. Grazie a te dell'ospitalità. E questa era Waze, scritto con la W-A-Z-E. W-A-Z-E esiste appunto per iOS e Android soprattutto e altri sistemi operativi minori. Comunque è molto interessante il business che si sta creando attorno alle mappe. Tutti stanno sviluppando servizi, cioè molti stanno sviluppando servizi attorno alle mappe. Pensate che Waze ha già ricevuto 55 milioni di dollari di finanziamenti e nonostante la risposta diplomatica di Elizabeth Reato, sicuramente stanno pensando al momento in cui andranno in break even. Questo è 2024, tra poco le notizie di GR24, poi parleremo di audio digitale. Siamo sicuri che stiamo ascoltando audio di buona qualità? Noi mica tanto, ne riparliamo tra poco. Il nostro numero verde 800240024. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024 alle 16:06. Un nostro ascoltatore ci scrive via Facebook, nella nostra pagina su Facebook, che mentre ascoltava l'intervista a Elizabeth Reato di Waze stava editando le mappe di Waze. Saluto Gianfranco Giardina. Ciao Gianfranco, bentornato a 2024. Ciao Enrico, bentornati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale D-Day.it, dove trovate molte informazioni, a volte anche su navigatori, perché fa parte del mondo dell'elettronica, sì, di consumo. Però oggi, su mia sollecitazione da qualche mese, cerco di portarti su questa strada. Allora, la domanda dalla quale partiamo, noi abbiamo una risposta, però poi la risposta la cerchiamo di condividere anche con i nostri ascoltatori. Allora, la domanda è: siamo sicuri che nell'era dell'audio digitale stiamo ascoltando bene, cioè ascoltiamo audio di buona qualità? Perché si è sempre detto, per molti anni si è detto, l'audio digitale è meglio dell'audio analogico, quindi la diffusione dell'audio digitale dovrebbe portare ad un miglioramento della qualità. Non siamo mica tanto sicuri. Hai scelto un tema molto pericoloso, molto pericoloso, perché su questo sono un fiume in piena. È incontenibile, perché è per quello che non ne volevi parlare. Certo. L'unica cosa con la quale mi sento di iniziare è dire a tutti: svegliatevi da questo piccolo incubo nel quale siamo precipitati da eravamo in una situazione buonina negli anni 70, migliorata negli anni 80, migliorata ancora negli anni 90 come fedeltà della riproduzione audio, e poi siamo precipitati in un tunnel sempre più nero in cui ci siamo abituati, perché al meglio ci si abitua sempre molto velocemente, ma l'uomo, che è un animale fantastico, si abitua anche al peggio, un po' più lentamente, ma si abitua, e ce l'abbiamo fatta, nel senso che dopo, diciamo, negli ultimi 10 anni dall'introduzione della musica liquida, in cui potevamo ancora migliorare la qualità di riproduzione audio. E non sto parlando solo di musica, ma sto parlando anche di come ascoltiamo, per esempio, le trasmissioni televisive. Ecco, siamo andati semplicemente peggiorando. E ci siamo anche abituati. Questo non soltanto per gli standard audio che utilizziamo in questo momento, ma anche per le performance degli apparecchi. Ecco, a proposito quindi è stata una situazione... Adesso siamo arrivati in un punto. Se negli anni 80-90 eravamo arrivati in un punto in cui migliorare era ovviamente difficile, perché già le performance erano molto alte e soprattutto erano richieste orecchie allenate, bisognava essere un po' competenti, un po' allenati per capire la migliore qualità audio. Oggi siamo arrivati in un punto dove per migliorare basta poco, sia come sforzo e anche come abitudine, come competenza. Chiunque può capire che un sistema suona meglio di un altro, visto i bassi livelli che abbiamo raggiunto. Sì. Su questo sono accanito. Allora, perché diciamo che ascoltiamo male cose, adesso senza usare anche delle brutte parole, però ascoltiamo delle cose che veramente fanno schifo, un po' per le cuffiette, un po' perché gli strumenti, ad esempio i televisori, i monitor diventano sempre più sottili e non c'è spazio fisico, proprio una questione fisica, oppure i tablet, cioè una roba assurda. Però spieghiamo perché abbiamo, insomma, perché diciamo che fa schifo l'audio che sentiamo oggi molto spesso. Perché l'occhio è un, cioè la vista è un senso preponderante sull'udito. Quindi si è preferito far vedere bene, display sempre più grandi, display meravigliosi, e insomma la parte audio si è lasciata un po' di contorno, purché si sentisse, ma come si sentisse non era poi, non è stato così in questi anni al centro dell'attenzione. E in realtà poi alla fine anche l'orecchio vuole la sua parte, e quindi ci si accorge che, per esempio, che display eccessivamente sottili, meravigliosamente sottili, devo dire, hanno però portato all'impossibilità di integrare all'interno degli altoparlanti adeguati. Il passaggio alle comodissimi auricolari in-ear rispetto alle cuffie più tradizionali. In-ear significa quelli che si mettono proprio dentro l'orecchio. Sì, quelli... sì. E quindi questi auricolari comodissimi, ma sono stati, parliamoci chiaro, comodissimi anche per i produttori, che invece di mettere, come c'erano i vecchi Walkman, le cuffiette ad archetto che comunque garantivano un minimo di qualità, hanno risparmiato anche parecchio denaro trasformando tutto in questi auricolari non solo di dubbia qualità, ma dalle prestazioni molto variabili. Chi ha mai provato un auricolare sa benissimo che a seconda di come lo inserisce nell'orecchio, a seconda di quanto lo preme, lo spinge all'interno dell'orecchio, la resa cambia completamente. Se spinge di più verso il fondo dell'orecchio, l'auricolare sentirà molto di più i bassi, se no i bassi tendono a scomparire. Ecco, è chiaro che non è che un ascolto possa essere fatto con più o meno bassi a seconda di come io mi metto la cuffia. E quindi adesso per fortuna stanno tornando di moda, ecco, devo dire, le cuffie esterne, a padiglione, sì, quindi esterne, che garantiscono quantomeno una migliore uniformità. Poi ci sono cuffie buone e cuffie scadenti, ci sono ancora le cuffie scadenti. Dobbiamo tornare ad avere un po' più di sensibilità, ma questo non soltanto per il gusto di sentire bene o per un gusto molto audiophile che neanche condivido. Insomma, c'è un grande gruppo di utenti in passato, adesso sempre più ridotto, che ascoltava qualunque tipo di musica, a prescindere dai propri gusti, purché fosse registrata in maniera audiophile. Ma chi se ne frega, lo scopo è sentire la musica, non è sentire la qualità di registrazione. Però sentirla bene, ecco, esatto, questo esatto. Sì. Bene, allora di questo parliamo nella seconda ora di 2024. Vi ricordo il nostro numero verde, già alcuni ascoltatori ci hanno chiamato per le loro domande, anche per alcune considerazioni. 800 24 00 24, se volete inviare un sms 349 238 6666. Potete utilizzare anche Twitter o Facebook, in questo caso cercate o Enrico Paglierini o 2024. Abbiamo però, Gianfranco, ci fermiamo un attimo perché la nostra rubrica, che ormai è un rito, delle Digital News. Digital News. Però fortunatamente questa settimana non ci sono tante notizie importanti, allora finiamo in un minuto. Però partiamo da notizia invece importante. The Document Foundation ha annunciato la nuova versione di LibreOffice, la 4.0, è ora disponibile per il download. LibreOffice è una suite da ufficio che nasce da un progetto open source, è dunque un pacchetto software completo, gratuito. Lo trovate all'indirizzo libreoffice.org. Digital News. Il 20 febbraio Sony presenterà, no, non è ancora ufficiale ma siamo quasi certi, presenterà la quarta generazione della mitica PlayStation. Avrà un processore a 8 core, ma Sony dice che non saranno le caratteristiche tecniche a stupire, bensì l'esperienza d'uso. Lo scorso anno ricorderete che Libero aveva comprato da Telecom per 88 milioni di euro Virgilio. Ora le due aziende, quindi Libero e Virgilio, continuano ad operare con il loro marchio, ma vengono integrati in un'unica e nuova società che si occuperà della raccolta pubblicitaria e di altre offerte e servizi per le aziende. La nuova società si chiama, pensate un po', con un vecchio nome, Italia Online, proprio come il portale nato nel 1994, conosciuto per molto tempo anche come YOL, e da cui era poi scaturito Libero. Italia Online poi venne chiusa e oggi quindi rinasce. È controllata da Weather Investment dell'egiziano Sawiris, che è l'ex proprietario di Wind. Adesso ci fermiamo per un minuto, notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Fino a qualche anno fa, quando prima di arrivare nell'epoca, nell'era della musica liquida, della musica digitale che possiamo comprare a pezzetti, ci compriamo la canzone 3 dell'album Tal dei Tali e la canzone 5 dell'altro album, cosa che fino all'epoca del CD non era possibile. Allora, Gianfranco, però quell'epoca ci aveva dato uno standard, cioè il CD era uno standard anche come riferimento nel mondo dell'audio, per non parlare del mondo del vinile, ma senza andare troppo indietro nel tempo. Oggi esiste uno standard o non esiste più uno standard? Perché è vero che gli MP3 sono famosi, ma ci sono tantissimi standard, tantissimi sistemi di campionamento, tantissimi tipi di file diversi, ma si capisce quasi più niente. Beh, sì, l'importante è che i file, come dire, suonino sugli apparecchi che abbiamo in casa o che abbiamo in tasca. Poi non tutti si preoccupano di capire che tipo di file sono, e come dici giustamente esistono tante codifiche e anche all'interno delle stesse codifiche esistono tante qualità. Mentre il CD era uno, e quindi anche se su un CD si poteva tranquillamente incidere un audio di cattiva qualità, magari perché registrato male alla fonte o masterizzato male, ma comunque il CD era una garanzia. C'è da dire che quando siamo passati dal CD, o meglio non siamo passati, quando sono state affiancato al CD la musica liquida, si è scelto di passare a dei formati cosiddetti compressi, e compressi con perdita. Quindi come per esempio l'MP3, compressi e compressi con perdita perché? Per avere delle dimensioni di file più piccole. Tenete conto che un minuto di musica in qualità CD occupa circa 10 megabyte, grosso modo. Ecco, quando è iniziata la musica... Quindi una canzone 50 mega, cioè una roba sì, un po' grossa. Quando è iniziata la musica liquida, le schede di memoria erano molto poco capienti e molto costose. Gli hard disk portatili disponibili ovviamente in piccolissimi tagli e anch'essi molto costosi, e quindi bisognava necessariamente avere dei file più piccoli. Per questo motivo sono stati inventati questi file compressi, che però perdono qualità, va detto, perdono informazioni, non ci sono nel file MP3 tutte le informazioni. Ovviamente non vengono cancellate informazioni a caso. Per informazioni intendiamo parte del suono, cioè praticamente un po' della frequenza del suono. Chiaramente la musica deve suonare bene, si dice dai 20 a 20.000 Hz, quindi deve avere tutta la gamma. Non si può fare come con le telefonate, per esempio GSM, prima avevi degli ospiti qui in diretta, al telefono si sente la voce telefonica che è chiaramente filtrata. Ecco, lì viene fatto addirittura un filtro sulle frequenze perché la voce più o meno sta all'interno di alcune frequenze. Nel caso della musica non si può fare, e allora si utilizzano altri metodi. E questi metodi, tanto per intenderci, utilizzano, cerco di spiegarlo molto semplicemente, alcuni principi di mascheramento, cioè un difetto dell'orecchio. L'orecchio non è uno strumento di misura perfetto, è uno strumento di misura imperfetto. Se ci sono due suoni a frequenze molto vicine ma diversi come volume, l'orecchio tenderà a sentire quello più forte e a cancellare quello più basso, perché è molto vicino di frequenza ma quindi non ce ne accorgiamo. Allora, l'algoritmo di compressione con perdita analizza lo spettro del suono e cancella, trascura quindi anche come dati, quelle frequenze che ritiene meno udibili, non udibili, perché poi dipende quanto viene compresso, diciamo meno udibili. E quindi all'apparenza, se il file è compresso bene, se il bitrate è alto, il suono è assolutamente identico a quello originario, ma nella sostanza così non è. Quindi, alla fine, che cosa succede? Che noi sentiamo una canzone, per esempio, compressa MP3, ma la qualità non sarà sicuramente quella iniziale. Può essere molto vicina a quella iniziale, oppure molto lontana, a seconda di quanto viene compresso il file. All'inizio, quando le reti erano molto lente, quando le memorie erano molto costose, ci volevano file molto piccoli, adesso siamo in una situazione in cui potremmo permetterci, sia per i costi delle memorie, che è diventato trascurabile. Un SD card da 32 GB costa 30 euro, 40 euro. Quindi oramai... Sì, sì. Beh, anche gli hard disk non costano più gli nulla. Gli hard disk non costano più nulla. La banda larga è disponibile, non magari dappertutto come vorremmo, sì, esatto, ma comunque... Sottolineiamo, perché sennò c'è no, l'email. Comunque è disponibile. Quindi perché avere oggi una qualità inferiore a quello che il CD offriva 30 anni fa, perché il CD ha appena compiuto 30 anni di vita. Sì. Quindi è questa situazione, sono passati 30 anni e ci siamo abituati a sentire peggio di come sentivamo prima. Senti, esiste tanto per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori, un'indicazione di massima per dire che un file audio è di buona qualità, tenendo conto del formato, e per formato intendiamo ad esempio MP3 è un formato, il WAV è un altro formato, eccetera eccetera. Allora, parliamo dei formati più diffusi e più, quelli, diciamo, disponibili anche negli store online. Sì. E sono fondamentalmente l'MP3 e l'AAC, che è un altro standard di compressione. Si dice, sì, probabilmente è anche vero, che l'AAC a parità di bitrate offre delle performance migliori. Comunque sia, un file, soprattutto di determinata musica, perché anche qui cambia a seconda anche del genere musicale, la musica classica tollera molto male la compressione, la musica jazz non la ama, certa musica rock e pop la tollera un po' meglio, ecco, comunque un file, a mio modesto avviso, sotto i 256 kilobit al secondo di campionamento, cioè di bitrate, è assolutamente inammissibile. Ma non per fare il purista, chi ha ascoltato musica magari non così non compressa così bene, oppure molto compressa in cuffia per molto tempo, proverà più facilmente una sensazione di stanchezza. Cioè è come se si vedesse un'immagine, per portarla sul paragone della vista, che magari è più facile da capire, sì. È come se vedessimo un'immagine, una scritta sfocate. Noi le vediamo, ma il cervello automaticamente le elabora e corregge queste sfocature, quindi le rimette a posto. Abbiamo capito anche questo, cioè ascoltare male dell'audio di cattiva qualità affatica anche di più. Assolutamente sì, stanca. Sì. Tant'è vero che quando si ascolta spesso la musica compressa, non è così infrequente che alla fine di un paio d'ore di ascolto ci si levi le cuffie per prendere fiato, per prendere aria, un po' di sollievo. E questo dipende dal fatto che la musica è compressa, o può anche dipendere dal fatto che il sistema di riproduzione che stiamo usando, semplicemente anche le cuffie che stiamo usando o il diffusore che stiamo usando se siamo in ambiente, è di scarsa qualità. Senti, visto che la musica oggi non sempre, perché esistono ancora i CD, ma sempre più si compra online, o comunque c'è una grande disponibilità di negozi online a partire da iTunes, che ha un po' inventato questo sistema per distribuire e vendere la musica, io ho fatto un po' di ricerche, ma spesso la qualità della musica non viene indicata, cioè ci sono delle indicazioni che fanno sorridere, perché c'è scritto musica di alta qualità. Ma cosa vuol dire? Cioè, noi non capiamo che cosa compriamo. Cioè, io vado a comprare tantissime altre cose, ci sono le specifiche tecniche, ma anche, che ne so, anche del prosciutto cotto, io so forse più informazioni rispetto ai file musicali. È una cosa scandalosa. È doppiamente scandalosa se soprattutto facciamo il raffronto con il maggior concorrente dell'offerta legale di musica, cioè l'offerta illegale. Ci sono delle codifiche che sono sempre più utilizzate dagli utenti, che sono codifiche compresse ma senza perdita, quindi non hanno tutto questo algoritmo di compressione che trascura i dati, ma i dati vengono conservati tutti e vengono compressi un po', tanto per risparmiare un po' di spazio. Tanto per tornare ai numeri, se un minuto di musica CD occupa 10 megabyte, un minuto di musica compressa senza perdita ne occupa 5, e un minuto di musica compressa a 256 kilobit al secondo, compressa con perdita, ne occupa 2. Quindi sì, certo, c'è un pochino di spazio in più, ma non è che sia una cosa che cambia molto. Travolgente. Ecco, queste codifiche, la più diffusa è FLAC, appunto, si chiama appunto così, si stanno diffondendo tantissimo tra gli utenti, che molte volte rippano, così si dice, cioè trasferiscono i propri dischi sul proprio hard disk o sui propri device codificati in FLAC, o trovano nell'offerta illegale, in download illegale, praticamente tutta la musica esistente al mondo già compressa o quasi, già compressa in FLAC, e la scaricano in questo formato e comunque non potrebbero avere la stessa cosa in un'offerta legale, il che è l'inizio dell'incitamento alla pirateria, che non stiamo certo facendo qua, però è evidente che questo stato di fatto ci porta quando il supporto di 30 anni fa ha ancora una qualità migliore dell'offerta legale liquida che le major vorrebbero spingere anche in sostituzione rispetto all'acquisto dei CD e all'alternativa pirata. Ma l'alternativa pirata che è legale, non costa, però offre anche una qualità maggiore, è difficile sostenerlo. Devo dire che alcuni segnali del mercato arrivano, ma sono segnali molto lenti. Ad esempio Sony Entertainment Network, che ha un servizio di vendita e anche di streaming in abbonamento di canzoni, ha detto una o due settimane fa offriremo musica a 320 kilobit al secondo, e mi sembra che tra gli store più importanti l'unico che fa a 320, quindi una qualità che rispetto a quello che dicevi prima è comunque accettabile, è quello di Google Play, che tra l'altro lo scrive, mentre molti altri non scrivono nulla e non si sa che cosa uno compri. Per completezza di informazione dobbiamo dire che esistono degli store online che vendono la musica in formato FLAC, ma hanno comunque un catalogo che non è ampio come quello degli altri store. Esiste anche un'iniziativa che si chiama Pono, che dovrà arrivare in Italia o in generale? Nel mondo. È stata solo annunciata? No, è stata annunciata, è un'iniziativa di Neil Young che vuole spingere l'adozione della musica ad altissima qualità non compressa, non contento di quella che è l'offerta, proprio tecnologicamente parlando, l'offerta della musica liquida in questo momento. Senti, a tal proposito però, poi parliamo anche delle dotazioni hardware, quindi delle cuffie, dei diffusori in casa, dell'impianto home theater da mettere a fianco alla TV, che ormai le TV hanno un audio che fa schifo, una cosa che è vergognosa. Ci sono anche dei produttori che se ne sono accorti e stanno correggendo il tiro, però dal punto di vista del file audio, che cosa possiamo fare? Cioè, qualche consiglio per comprare della musica di buona qualità? Beh, l'unico modo per comprare della musica di buona qualità è evidentemente in questo momento comprarla ancora compressa e comprarla dagli store che offrono almeno una qualità di 256 kilobit o 320 kilobit e non scendere assolutamente sotto queste soglie. Questo proprio è neanche l'ABC, siamo alla A, no? Dopodiché bisognerebbe, se possibile, favorire e sostenere anche con gli acquisti, non appena fossero anche più disponibili, eventuali scelte maggiormente qualitative. Va tenuto conto che quando uno compra un disco, in questo caso compra un file, magari lo ascolta oggi con lo smartphone, con un auricolare, però il file se lo tiene e domani potrebbe ascoltarlo anche con un impianto qualitativamente migliore. Per non comprare lo stesso file più volte, è evidente che vale la pena magari spendere anche qualcosina in più, ammesso che venga richiesto qualcosa in più, per avere un file di qualità maggiore. Senti, questi file, allora, se uno compra i classici MP3, AAC, Wave, eccetera, eccetera, tutti i lettori o il nostro computer li legge, giusto? Sì. Perfetto. Questo nuovo formato FLAC lo si legge facilmente o no? Cioè, se poi io me lo compro, mi compro un bel album ad altissima qualità, me lo metto sul mio lettore MP3, che si dice così music player, diciamo così. Beh, allora, per quanto riguarda i PC, evidentemente o lo leggono nativamente o esistono software che sono in grado di leggere questi formati di file senza problemi, qualsiasi sia la versione di PC. Per quello che riguarda i device, evidentemente bisogna sincerarsi che ci sia la compatibilità FLAC. FLAC, in alcuni sono compatibili invece ALAC, che è una versione molto simile ma proprietaria di Apple, sempre compresso senza perdita, e in questo caso bisogna vedere sulle specifiche tecniche, cioè non esiste una... Anche in questo caso stiamo notando che la diffusione della tecnologia sta complicando le cose in modo incredibile. Beh, lo diciamo spesso, si complicano le cose e io credo che sempre più sia necessario essere consumatori di tecnologia consapevoli. Quindi ascoltare 2024 e leggere idee.it, questo certo, da queste sé. Sono le indicazioni, esatto. È la A e la B. È la B. Mm. Però andare anche oltre, quindi provare a approfondire le cose. Devo dire che adesso abbiamo internet, che è una risorsa incredibile, sia perché magari uno si può riascoltare il podcast di una trasmissione di cui abbiamo parlato di un tal tema, sia perché è una biblioteca infinita in cui chiunque voglia approfondire una di quelle questioni che abbiamo toccato oggi, per esempio, potrà farlo tranquillamente. L'importante è documentarsi, non documentarsi dopo l'acquisto, documentarsi prima dell'acquisto. Sì. Un nostro ascoltatore dice: ascoltiamo sempre meno musica dal vivo, disabituando l'udito alla qualità audio per eccellenza, che appunto è quella della musica dal vivo. Beh, dipende, sì, un po' è vero. Però oggi non parliamo anche della cultura musicale, della cultura dell'ascolto, che è un altro tema bellissimo che potremmo approfondire. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, poi riprendiamo. Vi ricordo il nostro numero verde se volete intervenire, oltre che scrivere attraverso i vari sistemi che vi abbiamo proposto: 800 24 00 24. 2024, questa è la seconda parte di 2024. In questa seconda parte del nostro programma ci occupiamo di audio, un tema molto importante, visto che oltre che ascoltare la radio, ma insomma la radio soprattutto se è di parola, in quel caso non è molto importante la qualità, proprio per quello che dicevamo anche prima, la voce ha una gamma di frequenze, tant'è che noi siamo addirittura mono per offrirvi un segnale migliore in tutte le zone che noi copriamo. Ma diciamo, visto che tutti i giorni, chi più chi meno, un po' di musica la ascoltiamo, e la musica è una parte importante della nostra vita, la nostra puntata di oggi è anche un invito ad essere consumatori un po' più attenti e a chiedere ai negozi di musica liquida di migliorare la loro offerta, perché dall'analisi che noi abbiamo fatto effettivamente l'offerta è piuttosto scadente anche in termini di informazioni che vengono date. È possibile che io vada su iTunes e non sappia se un file è a 192, a 256, 320, eccetera, eccetera. È una cosa scandalosa. Dicevo, Google Play lo scrive esplicitamente, ma molti altri non lo scrivono. Io mi chiedo, ad esempio, la Microsoft lancia servizi di musica e offre pochissime informazioni, c'è scritto quasi nulla. A me sembra una cosa che non... Sì, va aggiunto anche, Enrico, che non dicono quasi nulla per quanto riguarda l'acquisto dei file, quindi il download dei file, ma spesso anche molto meno viene detto per tutto quello che riguarda i servizi invece di streaming, che stanno diventando, grazie all'utilizzo del appunto cloud della musica, una modalità di fruizione sempre più diffusa, e sempre più lo sarà, spesso e volentieri. Lo streaming, anche dei servizi che vendono file a 256 o 320 kilobit, viene fatto a un bitrate più basso. Quindi se noi scarichiamo il file, lo ascoltiamo a una qualità, ma se lo ascoltiamo in streaming, peggioriamo pesantemente la qualità. E quindi questo, sì, anche questa è un'altra variabile da mettere in considerazione. Facciamo streaming video anche in alta definizione? Possibile che non si possa fare uno streaming audio a una qualità un pochino più alta? Non ci credo, non è più un problema tecnico, sì, è soltanto un problema di volontà. Sì, a proposito di streaming, la prossima settimana verrà lanciato in Italia Spotify, e allora diamo tempo anche ai consumatori e agli ascoltatori di magari provarlo, visto che ci sarà sicuramente anche nella versione italiana un periodo di prova gratuito, e poi magari parleremo anche di questi servizi perché si stanno espandendo, cosa che abbiamo già fatto in altre occasioni. Saluto Giuseppe che ci telefona da Salerno. Giuseppe, buongiorno, benvenuto, l'ascoltiamo. Sì, buon pomeriggio a voi. Volevo parlarvi un po' di un altro aspetto che diciamo interessa più gli addetti ai lavori, che è quello del mondo della produzione, quello degli studi di registrazione. Insomma. Aia, andiamo un po' sullo specifico, però provi. No, ma giusto per dire questo, per dire che insomma, secondo me con questi ascolti, di cui ne condivido diciamo la qualità pessima, c'è bisogno di maggiori sforzi di registrazione, quindi maggior qualità anche in fase di produzione, secondo me, e quindi paradossalmente si fa uso di dispositivi analogici molto di più di quanto si pensi, insomma. Ho capito il suo punto e apprezziamo questo invito agli operatori anche in fase di registrazione a registrare, quindi fornire al sistema della musica audio di buona qualità già in partenza. Ma ci abbiamo qui, se parliamo proprio anche della catena produttiva, abbiamo un ulteriore problema, la cosiddetta masterizzazione. Cioè tutto l'audio professionale, come sicuramente il nostro interlocutore sa se è un professionista del settore, viene prima di essere inciso su CD piuttosto che inciso su file, permettetemi di dire così, viene filtrato, trattato per essere in qualche modo peggiorato, permettetemi il termine, in modo tale da suonare comunque decorosamente sulla media degli impianti che si trovano in giro, sulla media delle cuffie, sulla media degli speaker. Questo significa probabilmente andare a comprimere la gamma dinamica, andare a peggiorare il suono perché non mandi in distorsione gli impianti di cattiva qualità. È chiaro che i tecnici del suono, ingegneri del suono, adeguano tutti i loro parametri di masterizzazione sulla base del parco installato che via via cambia. Quindi se il parco installato è più scadente, la qualità della masterizzazione iniziale, quindi qui a prescindere dalla compressione che c'era, verrà sicuramente peggiorata per non mandare in difficoltà le docking station magari con piccoli altoparlanti, i TV che suoneranno quella stessa musica, perché oggi i TV sono collegati alla rete, possono essere usati anche come player musicali, però poi ovviamente se no vibra lo chassis, se no vanno in distorsione, se no ci sono dei problemi, se no bisogna continuare ad alzare e abbassare il volume. Quindi qui il problema è proprio più a monte. Se non migliora la sensibilità alla qualità da parte degli utenti e quindi di conseguenza non vengono scelti sempre più impianti, sistemi, cuffie di migliore qualità, e la qualità verrà tagliata a monte dai bravi ingegneri del suono che faranno questo per evitare che gli impianti scadenti vengano messi in difficoltà. Ecco, questo è l'ultimo rischio epoca, che dobbiamo evitare assolutamente. Sì, comunque ripeto, è paradossale che stiamo entrando, anche se in realtà siamo già entrati da parecchio tempo, nell'era dell'audio digitale, ma le cose stanno peggiorando a proposito di audio. Gianfranco, ci sono alcuni ascoltatori che citano, a proposito di audio ad alta qualità, il Super Audio CD, il DVD audio. Adesso non so se è esagerato dire che i supporti fisici, se non sono morti, poco ci manca, o comunque in prospettiva sono morti. In prospettiva sicuramente sì, ma diciamo che anche oggi, dovendo guardare il panorama dei supporti, il CD, no? Il vecchio CD che ha 30 anni, non ha subito l'attacco di Super Audio CD e DVD audio, e quindi è rimasto saldamente in sella. Segno che probabilmente la sensibilità degli utenti e la qualità di sistemi di riproduzione, ovviamente media, ci sono anche impianti di eccellenza e persone che amano un audio di altissima qualità, ma mediamente hanno trovato il CD più che sufficiente per le loro esigenze. Quindi questi sistemi, supporti a più alta definizione, li darei onestamente, purtroppo, per certi versi da appassionato dico purtroppo, ma devo comunque guardare la realtà in faccia e dico li darei per morti. Sì. Sentiamo Nino che ci telefona da Milano, buongiorno. Buongiorno, senti, io volevo un'informazione, io sono, non dico un audiofilo, ma sono appassionato di musica, volevo capire una differenza tra lettore CD e un lettore di musica liquida, a parità qual è la qualità migliore, qual è il suono migliore tra un lettore di musica liquida FLAC piuttosto. Sì, perché lei dice ci sono dei sistemi, dei lettori di file, cioè che hanno l'hard disk e lei carica i file, lei ce n'ha uno? Esatto, sì, io ho un sistema LIN, che è molto costoso, però alcuni mi dicevano guarda che comunque il lettore di musica liquida comunque suona meglio, tecnicamente suona meglio perché non ha laser, non ha la meccanica che gira, quindi a parità di file suona meglio. Bella domanda, grazie Nino, buon ascolto. Quindi se ho capito bene Gianfranco, ci sono dei lettori, cioè, lo so però cerco di ricapitolare, ci sono dei lettori di file che servono per leggere file che io non necessariamente hanno un hard disk, possono anche semplicemente leggere dei file che arrivano dalla rete, anche da un PC che sta sulla stessa rete. E il confronto lo facciamo con un lettore invece di CD, dove io vado a leggere dei file che sono sul CD. Allora, se il file liquido che stiamo leggendo è di pari qualità di quello del CD, quindi non compresso, le differenze sono assolutamente trascurabili. Se volessimo andare a spaccare il capello in quattro, potremmo dire che probabilmente, a parità di convertitori, di elettronica, di tutto il resto, il player di musica liquida suona meglio perché non ha una meccanica e quindi non può sbagliare nel leggere dei bit. Tenete conto che lo standard CD audio non ha un sistema di correzione degli errori, quindi se c'è un errore di lettura, questo errore di lettura va comunque a intaccare il suono, e poi comunque c'è il cosiddetto jitter, quindi la non perfetta cadenza della lettura dei bit che può esserci sulla meccanica, e invece non ci può essere praticamente, o comunque non in quei termini, su una lettura di un file che viene fatta con buffer. E quindi diciamo che chi vuole spaccare il capello in quattro, probabilmente la musica liquida suona meglio del CD a parità di file, anzi sì. Sicuramente suona meglio del CD a parità di file, però poi bisogna vedere anche tutto il resto, bisogna vedere per esempio la componentistica. Parliamo un po' anche della parte chiamiamola hardware, partendo da una cosa che si è diffusa tantissimo, cioè dalle cuffiette. Allora, ribadiamo, sarebbero da eliminare le cuffiette. Assolutamente sì, se non parliamo di cose, con qualcos'altro. Se non parliamo di quegli auricolari in-ear assolutamente professionali che vengono usati per esempio sul palco dagli artisti eccetera eccetera, che per esempio hanno il calco dell'orecchio, sono personalizzati proprio, no? per evitare per mettersi precisamente in un posizionamento assolutamente preciso dove garantiscono quella resa e dove generalmente servono anche perché isolano molto bene dall'esterno. Ecco, ma al di là di queste diciamo soluzioni assolutamente professionali, gli auricolari sono una soluzione, lasciamoli perdere assolutamente. Quindi tanto più che adesso fare? La cuffia a padiglione è stata sdoganata di nuovo, anzi va di moda, tanto di guadagnato. E quindi sicuramente sentir le cuffie, quando si va a comprare una cuffia, io direi anche rifiutarsi di comprarla nei negozi dove le cuffie non sono, come si usava ai vecchi tempi, tutte in funzione con lo stesso disco, si possono sentire. Esistono ancora, viva Dio, dei negozi, anche della grande distribuzione specializzata, dove le cuffie sono tutte esposte, tutte in funzione, benissimo. Sentirle non soltanto evidentemente per quello che riguarda la resa acustica, ma anche il comfort proprio per come calzano, fisico, no? Questo esatto. È assolutamente certo. Importante. Poi quando l'ascolto dura molto, molto tempo, e tener conto ovviamente anche del tipo di genere di musica che si ascolta, senza farsi ingannare dalle questa musica che io chiamerei un po' grassa, no? Questa resa un po' loudness, potremmo dire un po' molto molto caricata, che fa sembrare un pochino più ricco, un pochino più bello un suono, ma forse un po' meno innaturale. Quindi nei casi in cui in cuffia si può provare ad ascoltare della musica, non quella che sta passando, ma della musica che magari un disco che ci si porta dietro, ecco, un buon consiglio è portarsi dietro un disco che si conosce bene. Che si conosce, certo. E sentire quello. Sì. E questo è il vero unico modo, no? Comunque hai detto bene, la musica andrebbe ascoltata tutta, come diceva il mio vecchio capo, a tutto a zero. Cioè, come controllo dei toni. Ma sì, tutti i toni, buttateli tutti a zero e sentite quello che è stato registrato. Ci risentiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo l'ultima parte, l'ultimo slot di 2024. Adesso parliamo anche, come ci dice Filippo D'Alecco, schermi piatti e sistemi home theater. Parliamone. Eh sì, bisogna parlarne perché l'abbiamo detto più volte, ma visto che oggi è proprio la puntata dedicata all'audio, all'ascolto di buona qualità, Gianfranco, ormai tutte le TV sono diventate talmente sottili per cui fisicamente si fa fatica ad inserire un sistema di audio, di diffusione audio compatibile con le leggi fisiche. E questo è un dato di fatto, no? È un dato di fatto inoppugnabile. Anche se migliorano i materiali, anche se migliorano i magneti, ferro fluido, tutto quello che si vuole usare, alla fine siamo arrivati a dei limiti di spessore e di ingombro che non consentono più nei TV di avere un audio di qualità. Voglio cancellare per sempre, no? Almeno tra i nostri ascoltatori, che ci sta ascoltando adesso, un luogo comune sbagliatissimo, una leggenda metropolitana, di quelli che dicono: ma a me alla fine interessa poco perché tanto io non sento ad alto volume. Questo vale sia per il TV ma anche per la musica. È l'inverso. È assolutamente l'inverso. Quando un sistema o un TV suona male, voi alzerete il volume di più per sentire, perché se no non capirete neanche il parlato. E qui voglio leggermente puntualizzare quello che dicevi tu prima rispetto alla radio, anche se questa è una radio di parola, no? La qualità comunque del suono è una cosa molto importante, proprio perché la parola va capita. Infatti, il suono si può anche sentire di sottofondo, la parola va capita per non perdere le parole. Esatto. Questa qualità ci vuole. Se non c'è la qualità, sia nella messa in onda in questo caso, nella registrazione, nella messa in onda e poi nell'ascolto, per capire sarà necessario alzare il volume, come quando si parla con una persona che sta lontana e si chiede, esatto, di alzare la voce. Infatti, infatti è esperienza comune, se voi sentite la radio, le telefonate, tipicamente si alza il volume perché la telefonata è un disastro. Certo. Il telefono è un grande amico per agilità, per raggiungere le persone della radio, ma un grande nemico per quanto riguarda la qualità. Però su anche questo qui apriremo un capitolo, un altro che capitolo va a finire, sul quale, no, il motivo per il quale noi stiamo telefonando ancora oggi, dove tutte le reti sono digitali, anche quelle di telefonia fissa, e stiamo telefonando con questa qualità, è assolutamente incredibile, Elio da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo fare una domanda, visto che comunque abbiamo comprato più o meno tutti i televisori molto sottili, e anche io mi trovo nelle condizioni che anche alzando il volume, comunque non, cioè forse non risolvo comunque il problema, perché alla fine certe cose non riesco a sentirle. Quindi volevo sapere eventualmente cosa fare dopo aver comprato un televisore sottile e dove si fa fatica a sentire. C'è un qualcosa che si può fare per sentire meglio? Sicuramente c'è qualcosa che si può fare, adesso Gianfranco Giardina ce lo spiega. Elio, grazie per aver chiamato, anche perché questa domanda cade a fagiolo, come si dice. Allora Gianfranco, effettivamente ci stanno vendendo delle TV a cui manca qualcosa. È come comprare la TV a fascicoli settimanali in edicola, cioè un giorno si compra il TV e il giorno dopo si compra la soundbar per sentire questa TV. E questa, ahimè, è una situazione diffusa, avere un audio anche, parliamoci chiaro, anche perché una soundbar potrebbe essere in qualche modo integrata anche nel telaio, nello chassis, nella parte bassa. La soundbar è quella barra che si mette sotto la TV. Sotto la TV, sì. Che guarda caso offre un audio che potrebbe in qualche modo essere integrato anche nelle TV, ma alzerebbe il prezzo delle TV. Siccome c'è grande competizione proprio sui prezzi, si preferisce tenere il prezzo più basso e poi eventualmente consigliare nostri, l'acquisto, esatto, di una soundbar. Quindi che cosa facciamo? Niente, bisogna comprare una soundbar, questo è il modo sicuramente più corretto. Tutti i TV, guarda caso, dispongono di un'uscita audio digitale che è pensata proprio per essere collegata per esempio a una soundbar. Tutto quello che suona su TV può essere suonato dalla soundbar, ci sono anche altri sistemi con l'HDMI, altri collegamenti, ma comunque i collegamenti sono facili. Addirittura stanno uscendo dei TV che hanno possibilità di avere una soundbar collegata in Bluetooth, quindi anche senza fili al TV. In questo modo evidentemente il collegamento risulta ancora più semplice. Ci saranno anche le soundbar di cattiva qualità, quindi cadiamo dalla padella alla brace. Ci sono anche le soundbar di cattiva qualità. Certo è che se è più facile fare un TV che abbia un audio di cattiva qualità, per fare una soundbar che deve solo suonare di cattiva qualità bisogna impegnarsi. Ok, ma meglio invece un home theater, cioè un sistema con le due casse laterali, magari un subwoofer eccetera, o con la soundbar si fa molto? Allora, con la soundbar restituiamo una correttezza di spettro tonale al suono, il suono ritorna ad avere un'ampiezza di frequenze come si deve, una dinamica come si deve, è ancora poco più che mono. Anche se esistono delle soundbar che simulano l'effetto surround, ma diciamo così, viene dal TV. E cosa diversa è la stereofonia o addirittura l'home theater, che offre delle performance nettamente superiori a fronte di complicazioni di installazione abbastanza superiori. Quindi diciamo, lo sforzo è ampiamente ripagato, ma sforzo c'è. Quindi semplicemente far passare i cavi per arrivare al lato posteriore della stanza per i canali effetti, gli stessi che poi abbiamo al cinema, ma a replicarli anche in casa, può essere semplicissimo se siamo in fase di ristrutturazione, se stiamo facendo passare dei cavi, siamo in fase di costruzione. Un po' meno complesso, almeno fare un lavoro pulito, senza cavi a vista, eccetera, eccetera, se lo facciamo a casa già largamente operativa e senza voler fare grossi interventi. Vabbè, comunque sempre meglio, diciamo, Avere due casse almeno destra e sinistra, o la soundbar fa già un buon... Ma allora, per la visione televisiva quasi mi verrebbe da dire che è meglio la soundbar, perché la bocca è una sorgente puntiforme. Quindi quando noi vediamo qualcuno sullo schermo che parla, semplicemente l'attore di un film o lo speaker del telegiornale, il suono deve arrivare da lì. La stereofonia potrebbe dare un'immagine di questo suono, di solito si dice questa immagine acustica, appunto, quindi proprio per dire la dimensione poco naturale, è molto ampia, molto larga, capito. Addirittura bucata in mezzo, e quindi dare un effetto poco naturale. Per il TV, devo dire, e per l'ascolto televisivo e basta, la soundbar va bene. Non bisogna porsi degli obiettivi irraggiungibili, visto che partiamo dagli speaker inesistenti dei TV di oggi. Certo, senti, mancano 3 minuti alla fine della trasmissione. Noi, tra i punti che ci eravamo posti come obiettivo, avevamo messo anche la parola casse, cioè i diffusori acustici da tenere in casa. Sì. Possiamo dire qualche cosa o lo rimandiamo ad un'altra puntata? No, possiamo dire qualche cosa, comunque velocissimamente dire che ci sono dei principi fisici che impediscono di avere casse ben suonanti in dimensioni trascurabili. La cassa ha bisogno di un certo volume e ha bisogno di coni che abbiano un certo diametro. Quindi chi vuole delle casse che non si vedono, inesistenti, piccolissime, avrà probabilmente intanto un subwoofer da mettere da qualche parte, che piccolissimo, inesistente non sarà, quindi comunque non otterrà quello scopo, e poi avrà sicuramente un suono peggiore. Bisogna rincominciare ad apprezzare il fatto di avere un paio di diffusori magari su uno scaffale. È un po' come voler avere un trombone piccolo. Il trombone è di quelle dimensioni, è un fatto fisico. Dunque, sentiamo Alessandro, non penso riusciremo a rispondere ad Alessandro, però Alessandro ci dà uno spunto per una delle prossime puntate, dalla provincia di Prato. Alessandro, benvenuto. Buonasera. Prego. Sì, il tempo è quello che è, sarò sinteticissimo. Vorrei fare 2 domande al signore lì. A Gianfranco Giardina. Gianfranco Giardina, sì, mi sono collegato da poco. Vada. Allora, scusate, sono un po' emozionato. Allora, da quando in Toscana è passata al digitale terrestre, dallo scorso anno, ho notato che l'audio è non peggiorato, è letteralmente peggiorato. Probabilmente per la questione del file d'origine, non so cos'è, mi gradirebbe saperlo, se è un MP3, un MPEG, è che transfer rate addirittura, perché deve essere una cosa di bassissima qualità, tanto che io a 40 anni che suono uno strumento, so bene cosa sono i suoni, e ho difficoltà a sentire le televisioni, mentre nei miei dischi vinile, CD, li sento molto bene. Quindi ha un parametro di riferimento. Cioè, se usassero un codec migliore addirittura, qui a un livello addirittura una cosa a livello di telecomunicazioni, non so. Alessandro, grazie per aver chiamato e grazie per questo spunto. Gianfranco, questo è effettivamente un problema, non solo della Toscana, un po' di tutta l'Italia e non so se di quasi tutte le TV. Beh, la stragrande maggioranza delle emittenti TV sono digitalizzate per finta, mi verrebbe da dire, cioè hanno tutta la catena di produzione analogica, con i limiti dell'analogico e i vantaggi evidentemente, e poi codificano in digitale quando mettono in onda. Quindi il suono sicuramente alla fonte non è migliorato, è quello di prima. In più viene compresso, perché la trasmissione dell'audio digitale sulle trasmissioni TV è compressa in standard MP2, cosiddetto, quindi ancora prima dell'MP3, con un disastro, con un bitrate massimo di 192 kilobit, quindi non accettabile. Diciamo così. Bene, comunque questo è uno spunto che potremo utilizzare per una prossima puntata. Scriveteci al nostro indirizzo 2024@radio24.it. Io ringrazio Gianfranco Giardina, perché lui viene sempre nel nostro studio e non sta al telefono, cosa molto importante proprio per la qualità dell'audio. Esatto. No, ma è vero, infatti una mia richiesta. www.dday.it è il sito internet, il magazine digitale diretto da Gianfranco Giardina. Grazie a Pietro Lacorte e Giorgio De Luca. Io sono Enrico Pagliarini. Gianfranco, ciao, bentornato. Grazie mille, alla prossima. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre sabato, tra le 15:30 e le 17:00. 2024.